24 mattino. Le 8 e 17 minuti, ben ritrovati con 24 mattino e diamo spazio all'economia, come di consueto. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, eccoci qua. Buongiorno, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, io prima ho già detto che oggi tratteremo il tema delle suonerie per l'antitrust, sì. No? L'antitrust come è succede un'altra spesso volta, esatto. Peraltro. Guarda, allora, tanto per capire quello pesante. Di cui vogliamo parlare questa mattina. Oddio, già temo. Ecco, ti faccio sentire una cosa. No. Mi chiamo Virgola. Lo sapevo. Sono un gattino, sono la stella. E vabbè, insomma, tempi duri per Virgola e soci. Quello che avete sentito è solo un esempio del grande mercato dei contenuti per cellulari. Parliamo di suonerie, di loghi, di sfondi, salvaschermi, giochi. E sembra incredibile, ma questo è uno dei segmenti del mercato high-tech più in crescita di questi anni. Il commercio di contenuti per cellulari è considerato uno dei più floridi e non conosce alcuna crisi. Molte volte, però, per ingenuità, si finisce anche in un trabocchetto, visto che si pensa magari di mandare un messaggio attratti da una pubblicità, di ricevere solo una suoneria, invece ci si abbona ad un servizio settimanale che spesso scopriamo non è per niente economico. Così è arrivata la sanzione che ha colpito le società che vendono contenuti e gli operatori che fanno da tramite alla vendita di questi contenuti, che sono gli operatori delle telecomunicazioni. Allora, per spiegarci che cosa è successo, abbiamo chiamato Alessandro Longo, che è un collega, giornalista esperto di telecomunicazioni. Alessandro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo avuto in primo luogo un intervento dell'autorità delle comunicazioni, poi è stata l'antitrust a sanzionare Telecom Italia, Vodafone Omnitel, Wind 3 per pratiche commerciali scorrette e ha vietato l'ulteriore diffusione appunto di queste suonerie, di questi loghi. In realtà che cosa è successo, Alessandro? Questo è il classico nostro problema, nel senso che antitrust e Agicom sono intervenuti tante volte su questo problema, multando soprattutto le società che vendono queste suonerie, che non sono chiaramente direttamente gli operatori, e poi anche gli operatori ritenendoli corresponsabili perché hanno fatto degli accordi con queste società. Il fenomeno è il seguente: l'utente, solitamente un adolescente, no, un ragazzino, vede la pubblicità della suoneria sulla TV, su giornali, spesso anche giornali rivolti appunto agli adolescenti, chiama questo numero, manda un sms a questo numero per avere una suoneria gratis, lo fa e in quel caso riceve la suoneria, d'accordo, però viene anche attivato un abbonamento silentemente. L'abbonamento viene citato a volte nella pubblicità, a volte viene citato in modo nascosto, in caratteri piccoli, a volte non viene citato affatto, e di qui le multe per pubblicità ingannevole da parte dell'antitrust. Tra l'altro, Alessandro, per correttezza volevamo anche ricordare che Virgola è distribuito e fornito da una società che si chiama Zig.it e non è quella multata, perché la società multata è la Zeng SRL, che evidentemente produrrà e distribuirà altri tipi di contenuti. Così, questo volevo dirlo. I servizi sono erogati essenzialmente attraverso numerazioni inizianti per 4-8, no? E quanto possono costare questi abbonamenti che non capiamo effettivamente di sottoscrivere a volte, Alessandro? 5 euro alla settimana, e quindi 20 euro al mese, costa di più di un abbonamento DSL avere una suoneria, e spesso questi addebiti poi non vengono, sono nascosti, nel senso che l'utente tipicamente si vede chissà perché prosciugare il conto del credito telefonico, non capisce perché, fa una ricarica e solo dopo si accorge e riesce a capire che è a causa di un abbonamento che è attivato senza che lui lo sappia. Tra l'altro, le sanzioni ancora una volta sono state piuttosto consistenti, 500.000, 600.000 euro adesso fra tutti quanti gli operatori che sono coinvolti in queste pratiche ritenute scorrette, e gli operatori ovviamente in propria difesa hanno provato a dimostrarsi strane a queste pratiche commerciali scorrette. C'è da crederci, Alessandro? Eh beh, sì e no, nel senso che loro hanno questa facoltà, cioè una società di servizi che vende suonerie può raggiungere l'utente soltanto se fa un accordo con l'operatore. cioè la società X deve contattare l'operatore Y e dire senti, permetti ai tuoi utenti di raggiungere il mio numero e tramite questo numero quindi ottenere il servizio che io erogo. Ecco, se l'operatore facesse, come dire, fosse più attento e evitasse accordi con certe società oppure in qualche modo facesse vigilanza su questi accordi, questi fenomeni non accadrebbero, però loro dicono che non siamo responsabili, non siamo tenuti a vigilare, ma a quanto pare l'antitrust la pensa diversamente. Ecco, adesso quello che ci interessa capire è come ci possiamo, tra virgolette, difendere magari anche i nostri bambini, perché voglio dire, questo è un mercato come un altro che cerca di raggiungere ogni potenziale fruitore in ogni modo possibile, quindi ammettendo che questo sia tutto regolare, il tema è cercare di capire anche come disdire un abbonamento quando lo sottoscriviamo consapevolmente o non consapevolmente, Alessandro, perché poi il vero problema è questo: non riusciamo più a staccarci da questi abbonamenti. Per prima cosa, ecco, non rispondiamo, non mandiamo messaggi ai numeri indicati da queste pubblicità, quindi non sottoscriviamo abbonamenti, non riceviamo suonerie di questo tipo perché hanno prezzi decisamente eccessivi. Ormai è possibile acquistare una canzone via internet a 99 centesimi del tutto legalmente e quindi non si capisce perché io debba pagare poi 5 euro al mese o 3-5 euro per una suoneria. Quindi prima di tutto evitare questo e di questo informare i nostri figli, non fatelo. Poi se siamo già caduti dopo aver sentito questa trasmissione in questa rete non è facile uscirne, perché per disattivare l'abbonamento bisogna mandare un SMS al numero con una scritta particolare, un codice particolare. Il codice particolare non è facile da trovare, però ci sono siti internet che li elencano, basta fare una ricerca su un motore di ricerca con le parole disdire suoneria e si trova un elenco delle parole chiave, e bisogna stare attenti perché bisogna digitarle esattamente, quasi fosse un videogame, no? E casualmente immagino che nessuno le digiti mai correttamente, no, al punto da poter disdire l'abbonamento. Bisogna rispettare gli spazi, le maiuscole, le minuscole, per esempio suoneria off solitamente è tutto maiuscolo, quindi bisogna stare molto attenti. Alla fine si riceve un messaggio, suoneria disattivata. Alessandro, io ti ringrazio per queste indicazioni, magari ci ritorneremo più avanti. Tra l'altro ieri abbiamo appreso anche da un'indagine della Commissione Europea che gli italiani sono i più grandi consumatori di telefonini nel nostro paese, anche se sta calando la bolletta media per utente, nel 2008 è stata circa di 19 euro al mese, quindi abbiamo almeno questa buona notizia. Da Alessandro Longo ad Alessandro Milan, eccoci qua. Tra poco, Debora. Guarda, oggi affronto un tema molto divertente. Quanto ci costa sposarci? No, nome te, ovviamente, perché tu sei già a posto. A posto in che senso? Sono sposato, sì. Alle 8:31 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Uno sguardo alle ultime notizie. Sul piano casa slitta l'ipotesi di un decreto legge da presentare domani in Consiglio dei Ministri dopo l'incontro Governo-Regioni. Palazzo Chigi ha deciso di aprire un tavolo tecnico-politico con le regioni per arrivare a un nuovo testo entro la settimana prossima. Presidente del Consiglio Berlusconi inaugura oggi il termovalorizzatore di Acerra in Campania. Dall'immondizia si caverà energia pulita con un inquinamento pari a quello di 3 automobili, ha detto il Premier. Previste però manifestazioni di protesta. E oggi al Senato è in programma il voto conclusivo sul testamento biologico. Ieri la maggioranza ha blindato il testo, confermando il no alla possibilità di sospensione della nutrizione e idratazione artificiale. Infine, mondo dello sport in lutto. È morto ieri Giovanni Parisi, 42 anni, ex campione del mondo di pugilato e medaglia d'oro alle Olimpiadi di Seul 1988. Parisi è stato vittima di un incidente stradale a Voghera, dove abitava da anni. Ed è il momento del commento del direttore del Sole 24 Ore, dedicato proprio al termovalorizzatore di Acerra. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Oggi si inaugura la prima linea del termovalorizzatore di Acerra, che quando sarà a regime smaltirà 2000 tonnellate di immondizia campana. è un indubbio successo del governo Berlusconi, che vince laddove era caduto Prodi, prigioniero dei suoi alleati verdi. Il sottosegretario Bertolaso, artefice del progetto di intervento, c'è oggi, ma c'era anche prima. Insomma, che cosa era necessario fare lo si è sempre saputo, ma sono mancati per troppi anni la presenza dello Stato e la volontà politica di attuare un progetto di interesse comune. Ci sono voluti 8 anni per costruire un impianto che può smaltire una parte significativa dei rifiuti campani, e non va dimenticato che 5 anni fa fu scatenata, con la camorra alle spalle, una violenta guerriglia urbana per impedire la posa della prima pietra dell'impianto. Abbiamo visto molte manifestazioni spontanee e non contro l'impianto, mai una a favore, e ciò dovrebbe far riflettere anche la società civile campana. Adesso si discuterà se utilizzarlo appieno questo impianto oppure no. Speriamo di sì. Gli introiti potrebbero essere di 100 milioni all'anno, una cifra di poco superiore a quella che si è speso ogni anno per mandare i rifiuti in Germania. Buona giornata. Grazie, buona giornata direttore. E noi, come detto, rimaniamo proprio su questo tema alle 8:34 minuti. 349-238-6666 è il numero per i vostri messaggi. Dunque, come avete sentito, il presidente del Consiglio Berlusconi inaugura la prima delle tre linee, un'apertura non definitiva, a regime dovrebbe entrare a pieno regime a giugno il termovalorizzatore di Acerra, insomma rifiuti in Campania. Una vicenda che ha fatto parlare dell'Italia in tutto il mondo e in modo senz'altro non positivo. Chissà se per esempio, anzi sicuramente tra i manifestanti del no, tra coloro che si oppongono, c'è l'avvocato Tommaso Esposito, che saluto, buongiorno. Buongiorno. Uno dei portavoce del Movimento Campano per i Rifiuti Zero, tra l'altro è stato anche consigliere comunale proprio da Acerra. Ecco, ancora ci saranno oggi manifestazioni, ancora proteste. Perché? Ma perché non si può non tener conto che questo impianto è un impianto che non garantisce la salute su un territorio già devastato e che continua a rappresentare un diverso approccio al problema. Noi consideriamo fondamentale partire dall'inizio di quello che prevede un ciclo di smaltimento virtuoso dei rifiuti e non certo dalla coda. Che fine ha fatto in Campania la raccolta differenziata? Se l'immondizia non c'è, quale urgenza spinge per l'inaugurazione di questo impianto? Io voglio ricordare che questo impianto non ha mai avuto una vera valutazione di impatto ambientale. La commissione ministeriale VIA nel 2005, il suo presidente, si chiama il professor Bruno Agricola, in commissione bicamerale dichiarava che non stava facendo una classica valutazione di impatto ambientale, stava intervenendo in un processo in cui vi era una necessità di carattere generale che ha portato alcune decisioni. Se si fosse seguita una procedura non di emergenza, i risultati, queste le parole di Bruno Agricola in commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti, sarebbero stati sicuramente differenti. Senta, lei dice non partire dalla coda, nessuno dice che la soluzione ultima al problema dei rifiuti è il termovalorizzatore, anche se qualcuno poi ci deve spiegare perché nessuno dei o pochi comuni campani rispettano la questione della differenziata del 35%. Però la regione Campania è l'unica, una delle poche che non ha impianti, non ha strumenti. Non ha però neanche isole di composta, isole ecologiche, non ha la filiera del riciclaggio, non c'è niente in Campania. Si è partito dall'impiantistica e i danni sono sotto gli occhi di tutti. Gli impianti, prima di essere decisi, devono avere una valutazione impatto ambientale. Questo territorio è stato devastato. Noi dal 18 al 21 abbiamo a Napoli ospitato il convegno internazionale di ZUIA, che è un'organizzazione mondiale, Zero Waste International Alliance. Sono stati presenti da tutto il mondo, dalle Filippine, dagli Stati Uniti, dalla Scozia, esperti tecnici ed amministratori, non stiamo parlando dei movimenti o dei comitati, sì, che hanno dimostrato come è possibile un ciclo virtuoso di smaltimento dei rifiuti, che per quella parte residua che in un ciclo virtuoso, con una politica seria di riduzione, riuso, raccolta differenziata e riciclaggio, trasporta circa il 20% di residuo con alternative agli inceneritori, che non ci dimentichiamo, sono dannosi alla salute. Ripeto, per esempio, Acerra quant'era di differenziata? Quant'è? Visto che il Consiglio Comunale peraltro non c'è più. Io sono uno di quelli che ha organizzato dal basso la raccolta differenziata auto-organizzata. Ma mi dica a che percentuale siamo? Sono perfettamente, ma Marcera siamo a zero di raccolta differenziata, ma i rifiuti in Campania sono 7200 al giorno. Questo impianto ne dovrebbe produrre, ne dovrebbe smaltire, come dicevate voi, tantissimi, sono circa 2000 al giorno. Scusate, se sono previsti altri 4 impianti di inceneritore, io penso che in Campania si è deciso di non fare la raccolta differenziata. Sono un po' troppi. Comunque, che spetta però ai comuni, siamo a zero, il decreto Ronchi prevede che almeno il 35% debba essere di differenziata. Ad Acerra siamo a zero, ne prendiamo atto. Io tra l'altro voglio salutare l'onorevole Paolo Russo, buongiorno, il Popolo della Libertà, campano, si occupa di questo tema, tra l'altro nella scorsa legislatura presiedeva proprio la commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Onorevole Russo, abbiamo letto sui giornali che anche il vescovo di Acerra dice: non benedirò oggi, non ci sarò alla presentazione, non benedirò l'impianto, perché la posizione della Curia è sempre stata una posizione critica e tale rimane. Vi infastidisce questa mancanza della Chiesa? Come dire, a me dispiace molto, molto, davvero molto, perché credo che la Chiesa dovrebbe occuparsi di vicende anche con il proprio monito critico, ma poi dovrebbe riconoscere anche lo straordinario lavoro e valore di una iniziativa che rimane epica, storica nel suo genere. In meno di un anno si sono cancellati 15 anni di incertezze, di trosie, 2 miliardi ed oltre spesi, inchieste fantasma, lente, consulenze, clientele, camarille. L'unica cosa concreta che insomma si è fatta sono state le aperture delle discariche oggi in funzione, quelle prossime di Chiaiano e di Terzigno e il termovalorizzatore di Acerra. Quindi finalmente in Campania, accanto ad una filosofia di prospettiva, c'è anche una struttura impiantistica che consente di cancellare quelle pagine che hanno funestato i giornali del mondo e soprattutto hanno funestato la nostra regione, il danno al turismo, la credibilità del paese, persino ai prodotti dell'agroalimentare del nostro territorio, ma anche dell'intero paese. Insomma, finalmente si guarda avanti, sapendo che ovviamente un impianto in sé non rappresenta la risoluzione di tutti i problemi. Senta, però ha sentito l'opposizione, l'avvocato Esposito, a dire: si fanno 4-5 impianti che possono smaltire più di quanto è la produzione giornaliera della Campania, come dire... Io sarei cauto nel dire questo, nel senso che cominciamo a ragionare di impianti quando cominciamo a vederli, nel senso che intanto abbiamo quello di Acerra e facciamolo funzionare. A Salerno finalmente ci si avvia verso una rapida costruzione ed è corretto che sia così. Anche la città di Napoli deve fare la sua parte, come ogni città, come ogni metropoli del mondo. A quel punto misureremo quali sono le necessità dal punto di vista delle performance ambientali, tenendo presente, guardate, che l'obiettivo rifiuti zero è un auspicabile obiettivo, credo etico, importante, ma se l'obiettivo è rifiuti zero e non si costruiscono impianti, è come dire zero malattie, siamo tutti per zero malattie e chiudere gli ospedali. È evidente che intanto bisogna costruire gli impianti per evitare di avere i rifiuti per strada. Impianti controllati, i sistemi di controllo sono moderni, peraltro saranno online, ci sarà un controllo telematico, c'è una struttura anche di medici, di professionisti autonomi che controlleranno che quell'impianto non possa recare danno alla salute dei cittadini di quell'area. Però diceva, è vero che non c'è la VIA, cioè la valutazione di impatto ambientale non è stata fatta. È vero a metà. E qui c'è un tema centrale che, sul quale io concordo con l'avvocato Esposito. Una delle cause di questa crisi è l'emergenza in sé. L'istituto emergenziale ha determinato una serie di presunte semplificazioni. Spesso la via più breve non è la strada che ti fa raggiungere prima l'obiettivo, per cui proprio perché si era in emergenza, il ministro Ronchi allora, vengono indotti in errore dall'emergenza ministri di destra e di sinistra, il ministro Ronchi da allora disse una cosa che non è il ministro Ronchi di adesso, è Edo Ronchi, no, diciamolo, perché c'è un ministro Ronchi anche adesso, ma è un altro, disse una cosa ragionevole: siamo in condizioni di emergenza, evitiamo la via se serve di fare un impianto presto. Successivamente, a distanza di 7 anni, il ministro Matteoli fu costretto a far fare sostanzialmente una nuova procedura, una via semplificata, che in realtà dal punto di vista tecnico era una via bella e buona, ma non era una via ordinativa, nel senso che i risultati in sé non rappresentavano un'imposizione per l'azienda che avrebbe dovuto realizzare l'impianto. In realtà poi tutte quelle prescrizioni sono state tutte accolte, quindi diciamo che non era una vera e propria via, ma i risultati sono stati efficaci allo stesso modo. Quindi io, sul piano della sicurezza siamo assolutamente tranquilli. Avvocato Esposito, che pensate di fare? Voglio dire, ci saranno oggi delle manifestazioni di protesta. Sì. Questa stessa procedura semplificata prevedeva come essenziale la possibilità che in quell'impianto dovesse essere bruciata esclusivamente il materiale XDM 5 febbraio 98, cioè il CDR, che in Campania non è mai stato prodotto. Questa è una delle prescrizioni ritenute vincolanti da questa procedura, nonostante tutto semplificata. Ebbene, con le due ordinanze Prodi prima e col governo Berlusconi successivamente, queste due ordinanze, questi due vincoli sono stati cancellati, in un contesto nel quale Acerra è stata dichiarata zona d'emergenza di diossina. Mi dica cosa pensate di fare adesso, avvocato Esposito. Noi, perché l'inaugurazione c'è, l'impianto ci sarà, voglio dire. E noi continueremo a portare avanti le nostre proposte. Oggi è la giornata nazionale contro la truffa rappresentata dal CIP 6, perché questa è un'altra questione che va posta all'attenzione. Questo impianto non lo voleva nessuno. Non è stata rispettata nessuna normativa in materia di trasparenza. Nessuno proprio. Nella sua gestione sono state fatte 3 gare e sono andate deserte. È stato fatto un affidamento diretto da 2A e a terminare l'impianto è una società sotto processo per truffa aggravata ai danni dello Stato e frode in pubbliche forniture. Queste cose bisogna dirle, non si possono omettere in un momento per cui per noi non è una giornata di festa, è una giornata in cui vogliamo far conoscere all'Italia le nostre ragioni. Sì. Noi non siamo quelli del no, siamo quelli che abbiamo... Beh, insomma, un po' di no ce ne ha detti, no? Tra l'altro assumendosi anche le sue responsabilità per quello che ha detto. No, della commissione bilaterale, mi consenta, io non le ho detto solo i miei no, io ne ho riportati degli atti e per noi oggi non è una giornata di festa, è una giornata in cui dobbiamo far conoscere agli italiani la realtà e la verità su questo. E noi, come vede, siamo qua a darle la parola, cioè ha spiegato il perché del suo no, come ha spiegato il suo sì l'onorevole Paolo Russo. Io mi devo fermare, vi ringrazio ovviamente con GR24, durante tutta la giornata seguiremo quello che succederà ad Acerra, l'inaugurazione, le manifestazioni di protesta, come nostra consuetudine. Dare la parola a tutti, grazie all'avvocato Tommaso Esposito, l'onorevole Paolo Russo. È il momento del traffico, poi andremo in Puglia, l'avevamo già fatto in Abruzzo, sapete che ci sono i gruppi regionali, ma non mi voglio dire molto di più. I gruppi regionali, quelli monogruppi, gruppi da uno. Com'è un gruppo da uno? Anche dal punto di vista del lessico c'è qualcosa che non va. Sì, i gruppi formati da uno. Boh, vabbè, mi sa che è uno escamotage per prendersi un po' di soldi in più, ma sicuramente a pensare male si sbaglia. Le 8:48 minuti, nella regione Puglia ci sono 70 consiglieri regionali e ci sono, udite udite, 21 gruppi regionali. Altro che semplificazione, altro che riduzione della razionalizzazione, riduzione del quadro politico, riduzione anche dei costi, diciamo. Io saluto Lello Parise, giornalista di Repubblica, buongiorno. Buongiorno. Ciao Lello, tu hai svelato insomma questa cosa, 21 gruppi e pare che non ci siamo fermati, potrebbero diventare 22, a parte i grandi partiti insomma che tutti conoscete, ci leggo, il gruppo misto, la Puglia prima di tutto, la Primavera Pugliese, poi c'è ancora la Primavera Pugliese, cioè ce ne sono due. Non so, ne ho visti due, poi Democratici Sinistra, Movimento per la Sinistra, Comunisti Italiani, Rifondazione Comunista, Margherita, Socialisti Autonomisti, Italia dei Valori, SD, Gruppo PSD, UDEUR, Movimento per l'Autonomia, Gruppo per l'Autonomia, UDC. Ma come mai ci sono 21 gruppi, Lello? Beh, ci sono 21 gruppi perché la stessa regione si dà regole che poi non rispetta e quindi... non rispetta il nome del pluralismo e della libertà, dicono quelli che parlano bene. Ci sono 21 gruppi perché l'andazzo è quello di consentire a tutti di formare un gruppo, dopo essere magari stato eletto sotto le insegne di altre liste, e quindi di percepire l'auto compenso mensile, sì, anche solo perché tu sei il presidente del gruppo e contemporaneamente il consigliere dello stesso gruppo. Sei capogruppo, solo che ci sono 8 gruppi da uno, l'abbiamo già visto anche in Abruzzo, cioè gruppo di se stesso, capogruppo di un gruppo di uno. Da uno. Noi abbiamo fatto un rapidissimo calcolo, il nuovo regolamento da applicare per l'Assemblea regionale pugliese prevede, però guarda caso sempre dalla prossima legislatura, che un gruppo possa essere formato almeno da 3 consiglieri, dalla prossima non nascerebbe più. Secondo un rapido calcolo che abbiamo fatto, praticamente i gruppi da 21, che è un record nazionale, ricordiamolo, i gruppi scenderebbero a 5. Accidenti. E il che vuol dire che ci sono al momento 16 capigruppo che non hanno ragione di esistere, ma che percepiscono quanto al mese? Ogni mese qualcosa come 11.802 euro netti al mese. Beh, non solo per il fatto di quanto percepiscono in più per essere capigruppo? Capigruppo rispetto al consigliere percepiscono la differenza sarà credo di un migliaio di euro. Tra l'altro, Lello, visto però che io poi, sì. Scusami se ti interrompo. Il problema è che ci sono 16 capigruppo che non dovrebbero essere capigruppo. Certo. E che farebbero risparmiare alla regione, cioè alle casse pubbliche, qualcosa come 2 milioni e 300 mila euro all'anno. 2 milioni e 300 mila euro. Allora, visto che noi è stato gentile qui con noi, abbiamo chiamato diversi capigruppi di gruppi da uno, e uno è qui con noi e si tratta di Luigi Loperfido. Buongiorno, consigliere Loperfido. Buongiorno a lei, presidente Lello Parise, l'ottimo Lello. Presidente del gruppo Democrazia Cristiana Indipendenti Movimento Autonomia, è così. Perfetto. Perché c'è anche un gruppo per le autonomie, Democrazia Cristiana Gruppo per le Autonomie, la dicitura è leggermente diversa, ma insomma siete due gruppi diversi, lei è un gruppo da uno. Non sono un gruppo da uno, sono un gruppo da due, perché Lello, ottimo giornalista, che però in alcuni casi deve prima di fare un po' di terrorismo giornalistico, io sono un vecchio collega, un vecchio pubblicista, deve in un certo qual modo interpellare, così come ha fatto sapientemente lei, e chiedere magari quelle che possono essere le motivazioni. E poi in base alle motivazioni delle due parti si tirano le conclusioni, no? Allora, il nostro non è un gruppo da uno, è un gruppo da due, perché abbiamo un consigliere che sta rientrando, che era stato sospeso per una condanna che aveva avuto, ha avuto la prescrizione di questa condanna, e ora la burocrazia, che è un po' lenta, sta facendolo rientrare, ma quindi il gruppo lei è comunque da due. Momentaneamente da uno, diciamo. Momentaneamente da uno, ma mantiene l'attività come se fosse da due, perché quando voi mi parlate di surplus di dipendenti e surplus di competenze al gruppo, dovete anche comprendere e capire quelle che sono le funzioni di un gruppo. Sì. Perché un gruppo, per esempio, da due, dove il capogruppo prende dalle 800 alle 1000 euro al mese, come il nostro, e che funziona, perché io sono sempre presente in regione dalla mattina alle 8:30 fino alle 2 e molte volte anche fino a sera tarda, quindi con i dipendenti. Beh, dalle 8:30 alle 2 è un gruppo che funziona. Noi abbiamo per esempio 6 dipendenti, no? 2 che sono tutti dipendenti regionali, 2 dipendenti che sono i segretari particolari dei due consiglieri, un dipendente che cura le commissioni, cioè guarda a tutto il lavoro delle commissioni, un dipendente che guarda al lavoro della giunta, un dipendente che è al legislativo, cioè perché noi formuliamo non mi faccia l'elenco dei dipendenti, però il dato di fatto, tra l'altro, guardi, ma terrorismo giornalistico è proprio un termine che io cancellerei, l'esordio io, su lei contesti, ma terrorismo è un'altra cosa giornalistico, perché molte volte il giornalista ha ragione e molte volte però prima di parlare di determinate cose o di fare determinati commenti. Ma lei dice siamo corretto come ha fatto lei. Siamo in due invece che uno. Lello Parise, vuoi replicare? Io ho 30 secondi, vuoi replicare su questo? Il dato di fatto è che ci sono dei gruppi da uno, dei monogruppi. Adesso lei dice io temporaneamente diventeremo da due, però i monogruppi ci sono ed è una vergogna, insomma. Diciamo che per ora è un gruppo da uno. Ecco, E diciamo che secondo le regole che loro stessi hanno votato, anche se fossero due, dovrebbero finire in un gruppo misto, perché non avrebbero ragione di esistere come gruppo, visto che non sono tre. E poi il terrorista, diciamo che per carità, terrorismo giornalistico, lasciamo. È infelice. Le informazioni le ricava dal sito ufficiale del Consiglio regionale pugliese. Ah, perfetto. Non un sito sedizioso, insomma, un sito abbastanza ufficiale. Ma ci fermiamo qui. Ringrazio Luigi Lo Perfido, ringrazio Lello Parise di Repubblica. Il dato di fatto è questo: insomma, ci sono dei gruppi da uno, ma ci sono anche alla regione Campania, ci sono alla regione Abruzzo, ci sono un po' ovunque. Ed è una vergogna, diciamolo chiaramente, perché si percepisce un'indennità e un gruppo formato da uno, io sul vocabolario non lo trovo. Detto questo, ci fermiamo qui. Tra poco Giuliano Ferrara parla di testamento biologico, oggi la votazione al Senato. Grazie a Laura Marchesi, Alessandro Marcotulli in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Ci troviamo domani.